اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت. والله nessuno può impedire ciò che tu vuoi dare e nessuno può dare ciò che tu vuoi impedire sia dato e nessuna difesa c'è da ciò che hai decretato. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, e nulla può essere utile il favorito dalla buona sorte come soccorritore, perché da te viene la buona sorte.